suppongo che ci siano anche dei bordelli, come se vengono chiamati, per le donne, perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Io non capisco perché alcuni vengano alla zanzara, perché voi siete degli stronzi, due amichevoli stronzi che fanno bene il loro mestiere, quindi avete rovinato più carriere voi, però la zanzara ha fatto parecchie vittime. Allora, Parenzo, tu non sarai d'accordo, ma sai la cosa? Buonasera, buonasera. Basta, ho detto con il buonasera. Non si deve più dire buonasera, buongiorno, buonasera, addio. Non si deve più dire. Ti prego. No, ma ti prego, lo dico io. Non voglio più sentire queste parole. Chi è quell'altro che diceva amore ieri? Non devo più, se non voglio più sentire queste parole. Buonasera, buongiorno, non mi interessa. Ti ricordi quello che ieri dicevo con l'ospite che diceva Carmen di Pietra? Che ieri sera amore, diceva, amore sì, mio. Amore mio. No, ma amore mio, come intercalare? Amore mio, ti prego. Ti prego. Allora, la cosa che mi fa più orrore, sì, è un'altra. Ci sono due personaggi considerati i capi di questa cupola, no? Sì. Di questa cupola mafiosa, eccetera, eccetera. Sappiamo, sì, due palle così da giorni, no? Che sono signor Carminati e il signor Buzzi. Signor Buzzi. Per sapere, proprio per avere il quadro del perché l'Italia è veramente un paese di merda, alla fine. Ecco, questi due personaggi sono proprio l'emblema, ma non per quello che fanno, per come sono arrivati a diventare i capi di questa cupola impuniti che trattano con politici, funzionari, eccetera, eccetera. Allora, il primo Buzzi, ha ammazzato il socio con 34 coltellate e poi ha addirittura cercato di bruciare il cadavere. Beh. Ha ammazzato il socio in affari con 34 coltellate, dopodiché è stato graziato da Scalfaro. Graziato da Scalfaro, signori miei, graziato da Scalfaro, nel 94. Dopo aver fatto una decina di anni, ammazzato uno, 34 coltellate, 10 anni. L'altro ha una carriera criminale di rapine, associazione a delinquere nella vicenda della banda della Magliana, non è mai stato condannato per terrorismo, perché vabbè, sarebbe troppo lunga, rapine e altre cose di questo tipo. Ha avuto per tre volte ha beneficiato del condono e di altre misure di favore, buona condotta, per tre volte. Poi uno dice, perché questi qua diventano i capi della mafia? Uno è stato graziato nel 94, un altro per tre volte ha usufruito del condono, Carminati. Ma è questa l'Italia? L'Italia che perdona, l'Italia del perdonismo, l'Italia delle grazie, l'Italia degli indulti, è questo. Il punto è solo questo. Se uno sta in galera 25 anni, tu ammazzi una persona, stai in galera 25 di fila, 25 anni, poi esci col cazzo che delinqui un'altra volta, non lo fai, quello è sicuro che non lo fai più, guarda, e dopo 25 anni in galera non lo fai più. Allora, a buon gioco Grillo, anche se poi bisogna vedere in termini elettorali quando, ma adesso non ci sono elezioni, peraltro, a buon gioco Grillo a dire, beh, alla fine ha letto pure un'intercettazione tra Buzzi e Carminati dove c'è Buzzi che parla e dice, se vincono i 5 Stelle qui siamo finiti, senti. Buzzi dice, il problema è che non ci siamo più noi, non ci stiamo più noi, noi non ci stiamo più, è una cosa incredibile, dice, Grillo è riuscito a distruggere il PD. Ora questa frase, queste tre frasi qua sono molto importanti perché non ci stiamo più. Se Grillo vince e il PD non c'è, e non essendoci il PD non ci siamo neanche noi con i nostri appalti, con i nostri subappalti. È molto importante questa cosa qua. E allora noi, la nostra struttura politica è sempre stata integra, siamo andati sempre avanti, noi non ci siamo dentro questa kermesse di ma non è neanche rubare, non siamo. Ah, Una parentesi, sapete cosa accade a Padova ai tuoi amici Rom, Parenzo? Allora, accusano il sindaco di Padova Bitonci. Sì. Zanonato era un amico, ora dobbiamo pagare le bollette. Vabbè. Poi dicono anche chi ci crea problemi non esce vivo. Signori Rom, Rom. Alle porte di Padova. Zanonato era no, un amico. Ma era un amico, cosa c'entra? Vabbè, cosa questo dicono dire? I Rom, che ti devo dire? Questo dicono i Rom di Padova. Questo alcuni. Dicono i Rom. Adesso dobbiamo pagare le bollette. Cioè, questi qua non vorrebbero pagare nemmeno le bollette, capito? Cioè, non vogliono pagare le bollette. Ogni Cristo di italiano paga le bollette. L'altro giorno ho pagato la bolletta degli ultimi due mesi dell'elettricità. Anche a tu, io vado alla posta regolare. A me vado lo dice RID automatico, me lo prendo tutto. No, io ogni no, mese io, no. Io vado alla posta per sentire un po' il polso della situazione. Vado alla posta, faccio la mia fila, mi riconoscono. Sì. Cruciani, come stai? Che dice? Alla Cruciano, radio, mi raccomando. Anche là, la radio, no, Cruciano, siamo a Milano. Siamo a Milano. Pieno di meridionale. Sì, è vero. Però no, mi dicono semplicemente come va, le cose, Parenzo, la radio, una testa di cazzo, vabbè, le solite perfetto, cose, no? Le cose, certo, sì. Regolare. Dopodiché... E Rom non paga bolletta mangiare, bravo, non cibo! I Rom invece pretendono... Bitonci fa pagare, cioè, bolletta! Io faccio la fila, io faccio la fila, faccio la fila alla radio, alla radio, faccio la fila alla posta, vabbè, la fila alla posta. Bravo, e faremo un applauso! I signori Rom di Padova, i signori Rom di Padova, non vogliono pagare la bolletta e protestano. Stanno con Bitonci. Vabbè, vogliamo passare allo scazzo tra Maria Teresa Meli e Alessandra Mussolini? Così, tanto per divertirci un attimo. Tutto nasce da una battuta, credo, sul nonno, cioè su Benito Mussolini. Vabbè, sentiamo, vai. Ma la cooperativa lei, 29 giugno è una cooperativa che è stata fondata, onorevole Mussolini, è stata fondata da Di Liegro, non stiamo parlando di una cooperativa di troppo... banditi, di no, banditi. Siamo... a parlare con un centro sociale, no, i poliziotti centro sociale, sono quelli che Mussolini, vengono come se gli venessi da fascista. Senti, non, io non i poliziotti, la senti, cognome. I poliziotti, ce l'avrebbe altro da arrivare in cartone. Quindi è inutile, Marino, sto barbuto che mi sembra San Francesco d'Assisi a parlare con i poliziotti. Senta, io non entro nella sua vita privata, sentire Fabio Donati stupidaggini su di me, va bene? Certo, non posso dire, Meli, attaccate. Meli, attaccate, vagliassa, ti arriva un cartone. Mamma. Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera, Alessandra Mussolini. Poi a un certo punto lei cambia addirittura posto. Cambia posto. Vabbè. Salvini sulla castrazione chimica. Così, durante la conferenza stampa alla stampa estera, a un certo punto dice, oltre al referendum sull'euro di Grillo, che dice una buffonata perché non serve a niente, eccetera, eccetera, dice anche la castrazione chimica per i pedofili. Vecchia cosa leghista, in particolare di Salvini. L'altra proposta di legge che abbiamo presentato riprende una sperimentazione già in vigore in alcuni paesi europei che riguarda la castrazione chimica. Visto che ormai gli episodi di violenza sessuale in Italia sono purtroppo all'ordine del giorno, per quanto mi riguarda, uno che compie violenza sessuale una volta deve essere messo in condizioni di non poterla più fisicamente compiere la seconda volta. Sai dove sono finite le foto quelle di Salvini mezzo nudo? Gli originali. Le ha comprate lui, mi pare. No, foto all'asta. In beneficenza poi ha ricavato. Sì. E chi è che tu le compreresti, ad esempio? No, assolutamente no. Però può darsi, potrebbero diventare cult tra qualche anno. Le foto, scusami, fammi capire, poi parliamo di altre. Le foto di Salvini nudo potrebbero diventare cult tra qualche anno. Che ne sai? Magari diventa, possono diventare cult. Magari diventa presidente della Repubblica. Se ti piace un mondo così. No. Se ti piace un mondo così. A me fa cagare un mondo così. A me fa cagare un mondo così. A me fa cagare un mondo così. A me fa cagare. Cagare. Un mondo dove c'è un politico che si mette nudo sulla copertina di un popolare. il settimanale. Qual è il problema? Perché Togliatti, perché Almirante, financo Almirante, vabbè, perché Paietta, perché De Gasperi, sei rimasto perché indietro. Craxi, sei rimasto indietro. Perché Andreotti, perché comunque tutti questi qui facevano queste buffonate. Allora, vogliamo per spiegare al a tuo amico un mondo così? No, no, no, a me piace tantissimo un mondo così, e invece non mi piace un mondo in cui Roma e Padova non pagano le bollette, capito? No. È questo che non mi piace. È questo. Il problema di Padova non sono i Rom, è un signore che siede come primo cittadino di quella città. Ma perché? Non ho capito. Quella città. Ma ti pare normale che non pagano le bollette? Roma adesso, ma ti pare normale che non pagano adesso le bollette? Padova è il problema dei Rom. Ma ho capito, ma pagassero le bollette, non sarà il primo problema, pagassero le bollette, no? Allora, ah, certo che devono pagare le bollette. No, Di Battista, Di Battista dice che alcune sue frasi sull'ISIS sono state riprese dal Papa. Ti giuro, ha detto così. Sono state riprese dal Papa. I giornalisti scrivono quello che vogliono. Quest'estate hanno scritto che ero pronto a farmi saltare in aria nella metropolitana di Roma perché avevo fatto delle dichiarazioni poi riprese parzialmente anche da Papa Francesco, per cui scriveranno quel che vogliono. Lo vedremo alle prossime elezioni politiche. Noi siamo molto determinati, siamo un movimento pulito, e siamo convinti del fatto che... Con Ferrara che dice faglielo dire che alcune sue frasi sono state riprese da Papa Francesco. Ma quale riprese da Papa Francesco? A Di Battì, e dai, su. Io volevo che lui ripetesse. Arriviamo adesso così, che Papa Francesco ha parzialmente ripreso una sua dichiarazione. Ma come si fa a dire così? Perché no, secondo me è una notizia questa. Tutte le altre, che lo spezzapollici fosse un 5 stelle, io l'avevo capito già dalla fotografia. ho evitato di dirlo prima. Ma questo che Papa Francesco parla come Di Battista è veramente meraviglioso. È con noi un uomo che ha portato per la prima volta il suo nome su una felpa. Parenzo, su una felpa. Non è Stefano Folli? No, su una felpa. No. Su una felpa. Pensavo, che c'è? Pensavo un inizio brioso. Cioè, con noi, che so io, no, Stefano, sì, Folli. Vabbè, ragazzi, oppure... due palle così. Massimo Recalcati. No, due palle così. No, beh, niente. Tu sai che c'è un uomo politico che è andato recentemente, e lo farà anche domani mattina, con una felpa, credo made in Italy. Anche se oggi la felpa di Sabini in realtà è made in Italy, gli hanno detto che era francese. No, non era made in Italy, un corno invece. No, ma non sai un cazzo, come al solito. Ci sono ma ci sono degli aggiornamenti su questo. Sai che la giornata prosegue, eh? Cioè non è che si ferma. Io sono fermo a ballare. Ecco, sei fermo martedì. A ieri sera. Sì, no, vabbè, a di martedì. No, sei fermo a ieri sera, appunto. A ieri a sera. Di martedì. Poi oggi è mercoledì, però. A Sir Floris sono fermo. Caputo. Invece no, non è vero. È made in Italy. Era un'azienda di Lodi che aveva un mezzo nome francese. Ma al di là di questo, voglio capire se la scritta buon anno. Se la scritta buon anno. Io, tenuto, voglio quella felpa lì. Voglio quella felpa. Quanti esemplari hai fatto, Gianluca? Mamma mia. Ah, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ma in realtà la prima me l'ha regalata un mio amico valsesiano che ha voluto così donarmela. È italiana, perché ho guardato... Sicuro, sì, sicuro. Sì, puoi garantire, sì. Posso garantire. E allora, visto che mi piaceva tanto e lui le fa, allora gli ho detto di farmene inizialmente una cinquantina. Il problema è che... ce ne sono tantissimi che la vogliono. Comunque io te la regalo volentieri. Io la voglio. Tu, Parenzo, gireresti con la felpa buon anno, ma in fin dei conti perché no? No, grazie. No, grazie. No, augurio, grazie. È anche un augurio. Ma io la voglio assolutamente, la felpa buon anno. Voglio buon stare anno, in trasmissione per una settimana con la felpa. E vai in giro con scritto buon trattino anno. Ma no, ti pare trattino, elegante? Trattino? Ma come è elegante? Ti pare elegante, ti pare. Vabbè, qual è il problema? No, ma, andare in giro con una felpa con scritto buon anno. Ma adesso che vuoi fare? Vuoi imitare Salvini e andare in giro con le felpe? Io no, me l'ha regalata e mi piaceva, allora a questo punto ho detto, vabbè, siccome andavo a una trasmissione televisiva, l'ho messa su. Si dimentica anche come si chiama, capito? Siccome giustamente no, si vergogna sì, di se stesso, no. Allora ha bisogno di scriverselo sulla maglia, no, perché si vergogna di se stesso. Alla fine dell'anno mi sembrava divertente il connubio buon anno cognome con buon anno l'augurio. Senti una cosa, ma... Beh, è un'iniziativa politica, beh, è giusto pagare i nostri deputati perché abbiano queste iniziative politiche di livello in Europa. Beh, no, beh, i radicali mettevano il cartoncino, io invece i radicali sono sciacquati la bocca, perché i radicali sono tutta un'altra storia. Vabbè, tutta non esageriamo, un'altra dai, storia. Non esageriamo, dai. Tutta dai. Un'altra Senti storia. Una cosa, Salvini ha proposto la castrazione per i pedofili. Immagino che tu sia d'accordo. Salvini, Matteo ha detto una cosa che condivido, che aveva già detto anche Calderoli. Sì. Però ti devo dire che se io pensassi a una cosa del genere, ad esempio mio figlio, sì, io sarei ancora più drastico, direi la pena di morte. Cioè, uno che fa una violenza a un bambino o una bambina, sì, ovviamente non c'è la pena di morte in Italia, quindi stiamo parlando però, di cose. Però tu personalmente, però in linea teorica sì, in linea teorica ti direi, per me pena di morte, punto e finito. Punto e finito per uno che ammazza un bambino. Dunque anche questa mamma, se ha ammazzato il bambino, alla pena di morte. Sì. Se questa mamma ha ammazzato il suo bambino, suo figlio, che facciamo? Sì, se dovesse essere confermato. Io, cioè, una persona così in giro, non, cioè, certamente non la vorrei vedere. Cioè, è meglio ammazzare. No, non la vorrei vedere, non è la sicurezza per nessuno, perché una persona che fa una cosa del genere, evidentemente gli manca qualche rotella. Cioè, è meglio che si ammazzi, dici tu, è meglio, che ne so, è meglio che... Dimmi. Ah, beh, secondo me è una persona che... Che non merita di vivere. Ma adesso non è che posso giudicare, cioè, non è che sono... No, se fosse, cioè, chi ammazza un bambino... Certamente io, se questa... Stanotte va il creatore, non mi dispiacerebbe. Comunque, la castrazione invece, quella che propone Salvini, la castrazione? No, quello che dice Matteo è una cosa che ovviamente è più realistica nei fatti. E ovviamente io la sposerei, nel senso che oggi come oggi in Italia, alla fine, anche quando fai il peggio del peggio... Ma io non ho capito una cosa. Quasi niente. Io il fatto di vedere quello che tratta la statuetta a Silvio Berlusconi, sì, che va a fare il casting del Babbo Natale, cioè, questo è un altro insulto, perché se quella statuetta... Vabbè, quello ha a che fare con la giustizia, non è quello di pedofili. Io pensavo che tu avessi un'altra idea su chi fa violenza sessuale nei confronti dei bambini, Cioè, che va al di là della... Vabbè, l'altra cosa potrebbe essere l'evirazione. Cioè... Come l'evirazione? L'evirazione, cioè sì. Cioè il taglio dell'uccello. Un uomo dovesse fare una violenza rispetto a un bambino o una bambina, io a quel punto non avrei problemi a dire, per me l'evirazione è così, abbiamo già finito di discutere. Zac, traffico. Finito di discutere, capito? Traffico. Sono tempi duri, non tanto per noi, ce ne frega niente, nulla, zero. E abbiamo con noi, caro Parenzo, l'altro leader della Lega, perché c'è Matteo Salvini, ma c'è anche Gianluca Buonanno con la sua felpa. Buon anno, capito? L'altro, come lo chiamo io, l'altro leader della Lega. Ti piace così? Eurodeputato no, Buonanno. Ti piace, allora, un mondo così? Ognuno ha le sue felpe. No, cioè, non esagerare, Matteo Salvini è segretario federale della Lega, vabbè, io adesso sono un suo soldato. Un suo soldato, perché comunque la Lega in primis. È come il circo, no? Ci sono i domatori. Bravo, ci sono i domatori dei leoni e poi ci sono i pagliacci. Che sono fondamentali quando fanno i numeri, i pagliacci. Cambia disco. Ma lo sai che Parenzo ha fatto uno spot sull'eutanasia? Cioè, ha fatto uno spot di qualche secondo sull'eutanasia. Non solo tu, ovviamente. Saviano, Veronesi, tanta gente c'era nell'associazione Radicali, Luca Coscioni, capito? A favore dell'eutanasia. Ma, certo. Guarda, io non sono in disaccordo. No, ma immagino. Senti una cosa, ma recentemente Veronesi ha detto che l'amore omosessuale è l'amore più bello che c'è, più puro che c'è, molto più puro dell'amore quello tra due eterosessuali, capito? Per me è una cazzata pazzesca, non ha nulla a che fare. Anche per me. Ma l'amore è amore, perché dovrebbe essere più puro quello degli omosessuali? Non c'è dubbio, perché lui dice tutto un ragionamento, l'amore è più puro, ma quando mai? L'amore è amore, punto e basta. Cioè. Anzi, devo dirti la verità, che quello tra omosessuale è un amore anche più libero in alcuni casi, il tradimento non ha tutta questa importanza rispetto agli... Questo non credo. Sì, non ha tutta questa importanza, dai, diciamo la verità, cioè, io conosco poco. Coppie omosessuali molto più libere da questo punto di vista, cioè si tradiscono a vicenda, se lo dicono, non hanno problemi, poi resta una stima e tutto, è così, cioè, è così. Senti, con Roma che bisogna fare? Buon anno? Si può salvare? Intanto mi pongo la questione che penso purtroppo che non sia solo Roma che abbia questi problemi. Vabbè, quello d'accordo. E poi, vabbè, che avrebbe bisogno di una pulizia veramente quello tutti. Immediata. Ci vorrebbe, tra virgolette, un novello Nerone. Ma cioè, Nerone bruciò Roma, però. No, appunto, dico un novello Nerone nel bruciare, non bruciare la città. Un nuovo Nerone, no, per fare tabula rasa. Un novello rasa, Nerone, ma non che bruci la città, no, che bruci il sistema, che lo dissolva. Un nuovo Nerone, stupendo. Ma ci vorrebbe, secondo me, una una persona che possa avere amplissimi poteri e che possa decidere tutto senza dover fare trafile con nessuno e fare pulizia totale. Allora sentiamo un po', no, c'è Bendola che ha detto una cosa su Salvini. Bendola su Salvini, sentiamo un po', su una cosa interessante, sentiamo. Bendola che se ci fosse Gesù Cristo darebbe il foglio di via a Salvini. Bendola: ci sono veleni che inquinano la società. E l'ultima cosa è sull'altro moralista che abbiamo visto prima andare a mettere il presepe, quello che se Gesù tornasse oggi gli darebbe il foglio di via. Salvini, Matteo, no? Salvini, l'altro moralista. Il foglio di via, sì, capito? Si riferisce a un episodio preciso, eh? Sì, che lui è andato quello lì della settimana scorsa, quello sconcio fatto, quel sequestro di Dio. Ma fatto è da lì. Salvini, difende il presepe, e dalla Lega. Difende, no, il è un sequestro di Gesù, ma quello difende. È un sequestro politico di Gesù. Ma è... avete sequestrato Gesù per ragioni politiche. Ma fa politica, ma dai, non su. Si sequestra Dio, hanno sequestrato Dio, questo è quello che hanno fatto, capito, perché Bendola? Lo hanno usato per scopo politico. Oh, capito, no, Bendola. Guarda, ti dico, ho sentito le parole di Bendola, però mi fa, tra virgolette, sorridere in maniera ironica, perché da una parte è proprio quello che ha detto Crozza ieri sera su Marino, cioè Marino Azio trova il Santo Padre, sì, e gli chiede preghi per noi, sì, no? Questa Bendola, che non mi pare che sia un cattolico praticante, eccetera, eccetera. In che senso? Si promette sulla questione del presepe, ma io da sindaco sono perfettamente d'accordo con quello che ha fatto Matteo Salvini. Vabbè, ma quello mi pare scontato che tu sei d'accordo, quindi, con quello che ha fatto Salvini. Ma come si fa? Siamo nel nostro paese, con le nostre regole, con la nostra religione, eccetera, eccetera, e c'è qualcuno che ti dice no, non devi fare il presepe perché, per come. Ma se non ti piace, vai da un'altra parte. Il problema è che te lo dice un dirigente scolastico che dovrebbe essere radiato. No, ma scusa, la scuola pubblica è laica, però dentro ci sono bambini di tutte le religioni, di tutte le etnie. Il presepe non fa male a nessuno. No, su, d'accordo, ma se la scuola allora è pubblica, dobbiamo tirarci via le nostre tradizioni e le nostre i nostri tradizioni, valori, ma che c'è... cosa? Ma guarda che negli Stati Uniti di America, dove ci sono diverse confessioni religiose, non è che se che fanno nella scuola pubblica non succede il presepe, nulla, dai, se c'è il presepe. È una questione di cioè tu non vuoi il presepe nella ti giro la domanda. Non io vuoi il non presepe mai nella avuto, scuola pubblica. Io non ho mai avuto problemi, ho frequentato sempre la scuola e allora, pubblica. Basta. Da ebreo non ho mai avuto problemi, ma ti dico io Natale, personalmente. Però Natale. ti dico che siccome la scuola è pubblica, deve garantire a tutti la pari dignità e la pari, quindi che bisogno c'è di fare il presepe nella scuola pubblica? Ma, soprattutto che la Lega sequestri Gesù. La Lega ha sequestrato Gesù. Ma a che titolo la Lega sequestra Gesù? Vergognatevi di fare. Avete sequestrato Gesù, avete fatto un uso politico della religione, una cosa vergognosa. Lo sai che cosa ha detto Bonanno l'altro giorno? Stupendo, è stato querelato dai rom sulla questione dei ladri, no? E poi ha detto: forse hanno rubato. Cos'è che non mi ricordo. Perché mi ha detto: ti hanno denunciato, hai detto, speriamo che non abbiano rubato la marca da bollo. Cioè, anche questi qua di Roma che non vengono male, a farci le morali, cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, e ti dicono pubblicamente anche in TV: ma io rubo perché non c'ho un lavoro, perché non so come fare, come non fare. Ma si può? Allora tutti gli italiani che sono senza lavoro dovrebbero tutti rubare, cioè, la marca da bollo, la marca da bollo. Oppure hanno detto: ma lei Buonanno sarebbe disposto ad andare a una tavola rotonda, sì, con i rom? Gli ha detto: attenzione che poi non troviamo neanche più la tavola. A dopo, il giornale radio. Allora, il teorema di Parenzo, una variante dice che la presenza di Parenzo in trasmissione è inversamente proporzionale all'interesse che la trasmissione genera. Vogliamo dire qualcosa su Renzi che propone un indurimento delle pene sulla corruzione? Allora, c'è una cosa veramente ridicola, a parte l'idea, è tutta propaganda. Gli effetti di questa cosa saranno nulli, totalmente nulli, è solo ed esclusivamente propaganda. E vi do la prova che è propaganda, non è una mia idea, cioè non è una mia idea balzana, perché sono contro Renzi, a parte che non è vero che sono contro Renzi. è una cosa totalmente demagogica, che non ha nulla a che fare con quello che accade. Non è che se tu aumenti le pene minime da 4 a 6 anni per la corruzione e fai una stretta non so su che cosa, vedremo poi ovviamente dai testi che verranno presentati, e risolvi le cose. Non risolvi una beneamata mazza, anche perché non un anno fa, non 2 anni fa, non 10 anni fa, non 20 anni fa, ma il 3 di dicembre, cioè pochi istanti prima in realtà credo che accadesse quello che è accaduto, o in realtà no, quando già era successo, ma erano i primi giorni, Renzi se ne usciva in questo modo. Sentite tutti e vi rendete conto della demagogia assoluta di alcune proposte, assoluta. E Parenzo sta zitto, Renzi, sentite. Io credo che il tema della corruzione sia un tema che questo governo ha affrontato come nessun altro. Non è facendo nuove leggi che si combatte la corruzione, è iniziando a farle rispettare a quelli che rubano. Travaglio, il problema non è inventarsi una legge nuova, poi naturalmente le facciamo quelle necessarie. Non c'è dubbio. Il punto però è che prescrizione, le ha promesse lei. Allora ci farò lei. Quando gli stessi che rubano, Greganti e gli altri, sono gli stessi dopo 20 anni, il problema non è di leggi, il problema è che se ti becco a rubare devi smettere di avere a che fare con la cosa pubblica. Non è con le leggi che si risolvono, sì, i problemi. Evidentemente c'è una contraddizione rispetto a quello che fa oggi, questo è chiaro. Io a differenza di allora, sì, ho sempre invece pensato che se tu fai pene più severe forse è un disincentivo a rubare, perché se tu sai che ad esempio ti farai 3 anni di carcere, intanto ti sei zazzato milioni di euro, e metti in conto, no, ma questo è il punto, tu dici io zazzo, no? Tanto poi al massimo faccio 3 anni, questo è il conto che qualcuno fa, però mi sono messo da parte un patrimonio. Sì, però se Renzi, giusto? Non può dire che le leggi non servono. No, ma questo è importante. Io questo sto dicendo, il resto me ne frega. A me interessa il punto, mica devo difendere Renzi. Ma che c'entra? Qui c'è una polemica che sto facendo. C'è una polemica che sto facendo. No, mi hai detto stai zitto. Sto zitto perché ascoltavo, dove volevo capire dove volevi arrivare. Nel senso che il problema fondamentale è la contraddizione clamorosa nelle cose di Renzi, che ti fa capire che le cose che adesso Renzi propone. Però sei anche tu quello che, e tu non sei il governo che dici non servono leggi nuove, perché sei tu che lo ripeti ogni qualvolta. Assolutamente. Io invece, a differenza vostra, tua e di Renzi, penso che se fai pene più severe, forse prima di zazzare metti in conto che non te ne fai 3 di carcere, ma te ne fai 10, e allora forse zazzi un po' di meno. Va bene. Giuliano Ferrara, spettacolare Ferrara e il caso della cupola di Roma. Sentite, la cooperativa una puzzonata. Poi c'era la cooperativa 29 giugno, cioè una puzzonata, che raccoglieva foglie, prendeva l'appalto con tutte queste guerre, eccetera, per l'ampliamento di un campo nomadi su 15, e faceva piccole cose, lo spettacolo della Dandini contro il femminicidio. Poi però c'era Carminati, aspetta, adesso ci arrivo. Poi faceva i Fratelli Italiani, fammi godere un po'. È vero che sponsorizzava, non pagava direttamente agli artisti, che hanno detto no, per carità, non abbiamo preso un euro da Buzzi, però c'era il marchio su questi spettacoli, eccetera. Mazzette per i poveretti, cioè non si tratta della grande mafia, delle mazzette dei poveracci, il che un po' è vero. Sai che cosa manca in questa inchiesta? Mancano le grandi cifre. Cioè le grandi dove cifre. Dove sono invece le grandi cifre? Le grandi ruberie. Le grandi cifre? Nell'inchiesta di cui nessuno per ora parla, sulla cosiddetta metropolitana nuova di Roma. E allora ci sono le grandi cifre. Non ci sono le mignotte. Ho notato. Questo è nuovo, non ci sono le puttane. Cioè, questo è strano. Non c'è un'intercettazione in cui si parla. Solamente la Russa, a un certo punto c'è un'intercettazione in cui dice che la Russa è malato di sorca, no? Non so chi lo dice, uno. Sempre con questo linguaggio. Così molto è l'intercettazione. Sì, no, questo è vero. Così diceva l'intercettazione. Io lo dico io. No, lo so. Poi sarà una cazzata, ovviamente. Ma è l'unica intercettazione in cui si parla di donne e di puttane. Di solito le intercettazioni sono piene di cose, no? Che riguardano le femmine. No, quello è andato con quello è andato con l'altro, quella si scopa per quello. Questa volta niente. Ferrara. Ecco, che cosa hanno fatto? Hanno dato delle mazzette non eccessive, visto, cioè, noi siamo solo agli inizi della storia. Noi siamo nell'Italia della Banca Carige, lì è stata spolpata una banca a Genova. Siamo nell'Italia del Mose, un comune. Del Mose, no, no, minuto, no, no, no. Questi di questa cooperativa hanno pagato Luca Odevaine, chi sono quelli lì? Boh, ci sono vari, adesso beh, ci stanno del ma PDL, saranno, tutti quanti. Ma sono una ventina di, ma sono una ventina di poretti. Ancora, ancora Ferrara, una bufala, si vede ad occhio nudo. Questa è una bufala, datemi retta. Ma datemi retta, è una l'altro bufala. L'altro giorno si vede a occhio nudo. Poi dice: voglio i morti, voglio i morti. Dove sono i morti? Quando c'è la mafia ci sono i morti. Vabbè, non è che la mafia non è sempre la stessa, non c'è sempre la lupara, eh. C'è anche un altro tipo di mafia, dico a Ferrara. Deve essere la violenza. Io ho visto la foto di una specie di bagnino con un bel petto così. Spezza pollici. Mi pare una violenza un po'. Ma no, ma scusate, appunto, allora, ora io non voglio che faccio a fare le intercettazioni. Ma dove stanno i morti? Datemi i morti, voglio i morti. C'è gente, se c'è la mafia voglio i morti sul selciato. Direttore Ferrara, c'è mafia, ma c'è che gente. E magari arriveranno adesso un po' di sparatorie. Speriamo che arrivino i morti. Comunque, magari no, possiamo anche no. Magari anche no. Poi dice: se uno è mafioso non è che si riunisce in una pompa di benzina. Ma questo mi sembra assurdo. Dove il cosiddetto quartier generale di Carminati. Invece in realtà stare in una pompa di benzina è molto più, se volete, è molto più nascosto. Un romanzo criminale, dai. Molto più nascosto. Cioè, i mafiosi che si riuniscono a fare i summit, non i casolari, quello è normale. Se uno va in una pompa di benzina non ti puoi aspettare che lì invece ci sia un gruppo di criminali. La pompa di benzina, sentite Ferrara scatenato. Questo Carminati. Piccola mala, dice adesso. Ma scusa, ma se tu facessi un'associazione per delinquere di tipo mafioso, ti riuniresti in una pompa di benzina? Mentre quelli fanno gli assegni per i Sta zitta. Vi devo interrompere io perché. Gli assegni per i gravattari, capito? È una bufala pazzesca. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Duro monito di Napolitano, senza moralità la politica frana, corrotti e criminali saranno puniti, ma l'antipolitica è quasi una patologia eversiva. Il sindaco Marino consegna in procura documenti utili per le indagini su Roma, negli atti dell'inchiesta i timori di Carminati, il procuratore Pignatone butterà l'aria a Roma. Riforme, governo battuto in commissione su emendamenti di sale minoranza PD che eliminano i senatori a vita, italicum in vigore dal 2016 o si vota con il Mattarellum. Grillo lancia il referendum antiero, ma per Salvini una presa in giro, duello a distanza anche su corruzione, leader 5 Stelle, gli unici integri siamo noi. Juncker avverte Italia e Francia, riforme o ci saranno conseguenze spiacevoli, ma Renzi insiste, anche il Fondo Monetario chiede di investire per la crescita. Domani interrogatorio in carcere a Catania per la mamma del piccolo Loris, in isolamento per timore di reazioni di altri detenuti. Un ministro palestinese muore dopo scontri con l'esercito israeliano durante una manifestazione di protesta. Abu Mazen, una barbarie, colpito al petto con calci dei fucili. Ti prego. Allora, dove andiamo? Andiamo, ecco qui, Sonia Verona. Buonasera a tutti. Vai. Allora, intanto siete fortissimi, fortissimi, è che mi fate un po' paura perché siete tanto cattivi, però sono contenta perché ci sono solo uomini che intervengono e finalmente si sente una voce che di donna. A parte che non è vero, questo non è vero. Va, dai. Comunque guardate, io non sono aggiornatissima come voi su tutti i fatti di cronaca, però vi ascolto sempre. E volevo solo intervenire velocemente riguardo quella opinione sia di Salvini nel evirare, sia di quell'altra persona che voleva invece proprio... Lei evirazione, sì, evirare, evirare. Ecco. Io invece sono molto molto più drastica, perché se qualcuno dovesse fare qualcosa a mio figlio o qualsiasi altro bambino, farei una cosa esemplare e che serve comunque. Cioè, quale sarebbe la cosa esemplare? Spiegami. Non lo so se dopo, ecco, comunque io prenderei. No, ma quale sarebbe la cosa? Ecco, la persona cattiva che ha fatto questa cosa cattiva, sicuri che è stato lui, lo metterai la domenica mattina dopo la santa messa in piazza e che il popolo lo giustizi, perché siamo stufi. La giustizia del popolo, la giustizia del popolo. Sonia, a cosa arriveremo, Sonia? No, chiedila un attimo. Con questa voce candida, con questa voce candida, terribile, leggera, questa voce candida, leggera, ha detto anche a noi: ma siete voi cattivi? Siete voi cattivi? Ho anche un po' di paura. Poi che vuole per il pedofili la giustizia in piazza, la giustizia in piazza, cioè con che cosa? Lapidazione, quello che preferisce la gente. Ma che vuol dire quello che preferisce la gente? Incredibile. Una persona che si comporta male, che fa queste atrocità soprattutto nei confronti dei bambini e dopo è già fuori e ne combina delle altre e fa del male a delle altre persone, questo non si può tollerare, non si può tollerare. E dunque? E dunque? E dunque io lo farei giustiziare, punto stop. E questo serve ad esempio anche per gli altri malintenzionati, questa è la mia opinione. Lo farei. Se come nei regimi, come avviene nei regimi? Lo farei giustiziare. Certo. Certo. Ma come? In che modo? Con quali frusse, con le pietre, violenza su di lui. Ecco, fai tutto quello con questa voce così gentile, con questa voce così è la banalità del male. Arrapante, proprio. Se vuoi, la signora Sonia, ma davvero. Manco per nulla, guarda. Beh, un ma po' manco sì, per però. Niente. Beh, un po' sì. Beh, se ti piace un mondo essere, così. Voglio essere lapidato da Sonia. Posso essere lapidato da Sonia? Guardi, come ha detto per esempio prima l'ascoltatore di prima. Mi può lapidare un po'? Mi può lapidare, signora Sonia? Voglio essere lapidato. No, lei è cattivo però solo teorico, secondo me, non è cattivo in pratica. Comunque se noi facciamo, se noi praticamente ci comportiamo, scusi, se noi praticamente esibiamo una persona malata di mente e cattiva dentro. È cattiva dentro, la lapidiamo, ferma lì, ferma, ferma immobile. Piccolissima tirata di orecchie, quello che mi dà molto fastidio, che quando espone i suoi concetti, quando si relaziona con gli ospiti, è molto troppo sboccato. Allora, siccome oggi Salvini ha detto, tra le altre cose, che il referendum sull'euro della Lega e dei 5 Stelle è una buffonata, e Grillo gli ha risposto dicendo che anche la Lega ha rubato, siamo noi gli unici che non hanno rubato, e addirittura ha letto un'intercettazione da Buzzi e Carminati in cui si dice che i 5 Stelle potrebbero scombinare tutti i nostri piani, no? Ed è questa cosa è vera, ma... cioè che effettivamente non c'è un caso di un rappresentante dei 5 Stelle avvicinato da qualcuno, ma per un motivo molto semplice. Beh, perché diciamo nelle grandi città eccetera non si sono mai sporcati le mani. Certo, poi governano per esempio Parma, ma anche per un atteggiamento, diciamo la verità, per un atteggiamento che è molto lontano dal fatto di ricevere, no, della politica tradizionale, o di ricevere un finanziamento per la campagna elettorale da una cooperativa, eccetera, eccetera. Beh, qualche inchiestina, amico mio, no, in Emilia Romagna, 5 Stelle. In Emilia Romagna, sui rimborsi della regione, ex 5 Stelle, poi tutto da dimostrare, sui rimborsi regionali qualche inchiestina riguarda, però sono d'accordo con te nella sostanza, però in Emilia Romagna, virgola, allora, amico ma mio. Glielo spieghi tu al tuo amico Iacona, Riccardo Iacona, sì, che ha scritto un libro contro la prostituzione, che trova incredibile che si cerchi un corpo da consumare. Senti, lui trova incredibile che si cerchi un corpo da consumare, ma uno no? Glielo spieghi tu o glielo spiego io, che non c'entra niente il corpo da consumare? Cioè, la prestazione è quella tra un cliente che ha voglia di scopare, cioè un cliente che ha voglia di sesso, e una persona che vende liberamente, quando è liberamente, il proprio corpo, cioè una prestazione, uno scambio equo, prestazione 100 euro, 200, 1000, ci sono prostitute pure per 5000 euro a notte, e uno che vuole invece soddisfare alcune legittime voglie, quando si è in questo campo, non nel campo della violenza ovviamente, no? Iacona. Sta diventando un comportamento di massa, si calcolano 9 milioni di prestazioni sessuali a pagamento all'anno per una platea di quasi 2 milioni e mezzo di adulti. E perché è incredibile che così tante persone vadano a prostituti, cioè cerchino un rapporto sessuale con un corpo da consumare in un paese che è sessualmente mediamente libero, cioè dove non è poi così difficile. Cioè, dice Iacona, è difficile, è sempre più facile trombare, diciamo, adesso la riduco e la riporto alla realtà questa frase. Cioè, è sempre più facile fare l'amore con qualcuno, trovare donne disponibili o uomini disponibili, naturalmente. E però è incredibile allora che mai è il contrario. Più la vita sessuale, come dire, è aperta, e più la prostituzione fiorisce. Mi sembra una stupidaggine questo caso, francamente, no? Ma no? No, ho un parere diverso. Io penso che chi va a prostitute ha tutto il diritto di andarci. Però quando c'è lo sfruttamento, c'è lo sfruttamento del corpo. Questo non c'è dubbio. Ma lo sappiamo. Poi non c'è per me, come dire, questo atteggiamento moralista che può avere invece Iacona. Allora, Sonia è andata oltre quello che ha detto Salvini, cioè dire la castrazione. Vuole addirittura la giustizia. Non Sonia Gandhi, Non Sonia Gandhi, Sonia da Verona. La giustizia in piazza. La giustizia in piazza per i pedofili, giusto Sonia? Sì, giustissimo. Ma non ho capito, Sonia, tu andresti a... Sì, beh, non è che devi mi precisare. Mi sembra manco in non è che sei il sindaco di Verona che devi precisare quello che hai detto, cioè qui non siamo alle dichiarazioni ufficiali. Hai detto una cosa molto chiara. Io credo, tu andresti molto a tirare grave. Andresti a tirare le pietre contro questo pedofilo? Io che non sono violenta, animalista, andresti, se vedo una formica pure animalista, sì, l'assalto, andrei anch'io, perché comunque se io evero, faccio virare o castrare una persona così, sì, lui comunque è sua mente malata, sarà sempre comunque violento in altre forme, in altri modi con le persone, sì, sarà sempre violento in altre forme, in altri modi, quindi quella persona va eliminata. Va eliminata, con la lapidazione in piazza, giusto? Ma lapidazione o quello che decide il popolo? Gianfranco da Bari. Quello che decide il popolo. Gianfranco, Bari. Sì, pronto. Vai. Salve, visto che buonasera non ti piace, dico salve, dai. Vai, uguale, dai, forza. Ok, io sono d'accordo con Salvini, perché alla fine, cioè io non lo so. Ma su che cosa? Dice tante cose Salvini. Sulla castrazione. Perché comunque bisogna vedere la gente, cioè quelle donne che sono state violentate, o figlie, o mogli, chiunque sia, sì, quel danno permanente che porteranno per tutta la vita. Quindi secondo me vanno castrati al 100%. Ho capito, ma non è che se ne esce. Qualcuno dice, alcuni esperti che ho consultato questa oggi, dopo l'uscita di Salvini, dicono che in realtà poi se tu togli l'appetito sessuale in questo modo, questi magari sfogano la loro violenza in un'altra maniera. No, ma qual è un fatto psicologico? Allora vaglielo a dire a chi è stato violentato. Vediamo lì questo danno psicologico che porta per vabbè, tutta tu la che vita. Faresti? Allora, Gianfra, che faresti? La castrazione, ha ragione Salvini. Sì, sì, sì, al 100%. Da Bari si alza una voce, ha ragione Salvini. Il fenomeno Salvini si espande. Ma se dovesse esserci una lista Salvini col suo nome presentata a Bari, tu che faresti, Gianfranco? No, io vabbè, ovviamente non sono d'accordo. È meridionale, non è che posso. Vabbè, ma tu lo voteresti Salvini o no? Sì, in questo momento sì. Mi sa che è uno che sta andando per quello che rispecchia i miei ideali, sì, anche sui Rom, ad esempio. Perché se posso, ho 5 minuti per dire una. No, 5 no, ma uno sì. Uno sì. Allora, ero in spiaggia un paio di anni fa, è una Rom. Stava rubando un bambino, no? Poi vabbè, diciamo. Ma stava rubando, chi te l'ha detto che stava rubando un bambino? Lo no, dici no, tu? Si stava portando. No. Si stava portando un bambino dalla spiaggia, poi il padre, cioè la gente se n'è accorta, il padre la stava affogando in acqua. Chi stava affogando in acqua? Non si capisce niente. il padre del bambino stava affogando la Rom in acqua. Ah, ok, allora? Capisci, Cruciani? Sì, ho capito. Dunque? Niente, la gente inveiva, diceva sì, affogava, sai chi l'ha salvata la Rom? 3 carabinieri in borghese, capito? E che dovevano fare? La doveva affogare, che doveva fare? Cioè la dovevano lasciare morire e affogare. E per forza, se rubano a te un figlio, che tu che fai, Cruciani? Gianfranco, ma tu che fai? Camionista, che fai? Sì, bravo. Beh, sei un grandissimo. Ma cosa vuol dire per forza? Dove stai andando? Ma non e si può far passare sta roba. Ma e vuole ammazzare la Roma che ha rubato il bambino. Che devi fare? Ma hai fatto come così? Che devi fare? Ma scusami. Ma hai fatto così, lascialo parlare, no? Ma hai fatto così un corno. Parenzo, quella che vuole mettere la forca. Parenzo, che ma state buone, state zitto un momento. Zitto, prima quell'altra. Ma scusami, stai zitto. Mamma mia, violenti. Prima c'è quella. prima c'è quello che chiama, fallo parlare, e se no non si capisce. Non pagano niente a nessuno, sono invisibili, sono parassiti, li devi cacciare. Uno, lo sai quanti se ne salvo? Uno su cento se ne salvo. Te lo dico, è inutile, dire no, sono tutti così. Il 90% sono così. Vai, ma quindi affogare, giusto che affoghi. Prima ha chiamato una che vuole la forca in piazza dopo la messa. Contro i carabinieri, a dire lascialo affogare, capito? Se non era per i carabinieri, quella là doveva morire. E tutti quanti gli battevano le mani. C'è una disumanità. Ma dove stai andando, Gianfranco? Dove stai andando? All'inferno sta andando. Da dove? Da dove? All'inferno, va. Sto tornando verso Bari, dai. Però sono andato nell'Emilia Romagna. Nell'Emilia Romagna, vabbè. All'inferno stai andando, stai guidando verso l'inferno. Ma che all'inferno, ma stai zitto, che è una bella terra, più bella d'Italia, ma stai zitto. Dici delle cose di una violenza. Ma le piazzole, ti sei fermato in qualche piazzola, Gianfranco, no? A piazzola? Allora, mi fermo nelle aree di servizio, perché mi devo fermare a piazzola? No, sempre per quella storia prima di notte dei gay che vanno lì nelle piazzole, no, non succede. Ma no, stai zitto, Cruciale, che proprio stamattina mi è successo. Che è successo? Che è successo? Che stavo facendo il mio bisognino e mi sono visto a questo dietro. Alto, ma che vuoi? E lui mi ha fatto segno, sai, no, non voglio essere volgare. Ho detto, con la 20 euro in mano, ho detto, che devo fare? Ha detto a me, sai, ho detto, sai, prendi la strada, devi se te ne vai di qua, dai che mo ti prendo il calcio nel culo, vai via di qua. E insisteva, Cruciani. Le poi grandi inchieste della Zanzara. Dov'era? Che zona era? Che zona era d'Italia? Pescara. Pescara, dunque, piazzola. Segnaliamo sta piazzola ai tuoi amici, no? Area parcheggio Fonte Antica. Area parcheggio Fonte Antica, segnalato gay con 20 euro in mano oggi. Hai capito che fanno? Mauro da Mantova, grazie. Ciao Giafra, Mauro. Ciao Cruciani. Oh, Mauro, caro Mauro. Ma a te, dimmi, caro, piace un'Italia così, dove il presidente che fa cancellare le intercettazioni quali? Dice l'Italia è messa male. Napolitano. Cazzo, sei tu che l'hai fatta diventare una merda. Ma perché? Scusa, che ha fatto Napolitano? Cacciando Berlusconi. Tu hai avuto una merda l'Italia. I magistrati e tutti quei ruffiani di Berlusconi che si sono fatti comprare con i soldi del Monte dei Paschi. Ari dai, questa Monte dei Paschi. Mauro, sono cose troppo grandi per te. Sono cose troppo grandi per te. Ma gli ha dato 4 miliardi e 200 milioni. Ma se sono cose troppo grandi per te, il Monte dei Paschi. Ascolta. Oh, ma c'è la banca agricola Mantovana qua a Mantova, e la banca agricola e Monte dei Paschi è la stessa identica cosa, come il San Paolo e Banca Intesa, oh, ma con chi deve parlare? Con il figlio dello sfigato della Serra, io non so più di te, Dici? Sì, volevo sapere, ma cosa aspetti a dargli una degna sepoltura al gatto? Quale gatto, scusa? Quel gatto che è in testa. Che si vede lontano un chilometro che ha un gatto morto. Ma quale gatto in testa? Hai i capelli, dici tu. Ma porca puttana, ma si vede lontano un chilometro che è un gatto che non hai, sono senza i capelli. te mi sembri Silvano. Uno che si chiamava Silvano faceva il lavoro che facevo io. Siccome che un carrozziere era indeciso, non era sicuro che fosse un gatto morto, che fosse i suoi capelli, ma se lo gli fa... Ma sai, ho tirato dello stucco metallico, c'è un po' di polvere, mi dà una soffiata alla schiena con l'aria. Lui cosa ha fatto? Gli ha soffiato la schiena, poi gli ha soffiato a 12 atmosfere sotto i capelli. È partito il gatto, è andato in mezzo all'aria. In mezzo al parcheggio. Ma non ho un gatto, sono i capelli un po' lunghi, adesso li taglierò, dai. Ma su. Ma non dirti, ragazzi, ascolta, si vede che quello lì è un gatto. È vabbè, un gatto, no, non è un gatto, sono i miei capelli, dai, smettila. E poi quell'idiota lì non lo so nemmeno nominarlo. Sì, Parenzo. Ma i radicali. Sì. Ma i radicali non esistono più perché sono andati tutti nel PD. Il PD è fatto da lesbiche, ricchioni o culattoni come lui e ex democristiani. Ex democristiani. Ma perché, scusa? Perché? Perché lesbiche? Ma ascolta. Perché lesbiche ed ex ricchioni? Scusa, Mauro. Ma vuoi negare l'evidenza? Ma perché lesbiche ed ex ricchioni ed ex democristiani? Ma cosa la vita? Che cos'è? No. La cosa, la Paola Concia, che cos'è? Perché? Crocetta, che cos'è? Se non un ricchione. Ma ascolta, ma che cazzo stai a dire? Ma se sono tutti ricchioni elettriche. Ma perché? Dai, su, ascolta, Mauro. Ascolta, i magistrati che gennaio-febbraio 2010 si sono incontrati dove? Qui a Mantova per fargli il colpo di a Stato chi? Contro Berlusconi. Oh, bello. Ah. Da gennaio e febbraio 2010 qua a Mantova, il corso Garibaldi, Ma quale Corso Garibaldi? Ma Corso Garibaldi? Casa Poli. Ma qua? 4 stelle. Ma sei il Brunetta de Noantri, te. No, dai, su. No. A Casa Poli, 4 stelle. Fermo, manto, fermo, sì. Ma... di macchine del Ministero della Giustizia, i tacchini grossi, pubblici ministeri, tacchini grossi. E sai da chi ha gestito il da Casa Poli? Da chi ha gestito? Da due lesbiche. Ma perché dai, Mauro, su. Pivi, fermo lì, fermo lì, resta lì, non ti muovere, ti voglio sentire tra qualche minuto. Aspetta, fermo che c'è un ospite, fermo. Allora, in collegamento da casa sua, Parenzo, un uomo che non si vuole dare per vinto casa dopo sua, tanti dove, anni. Però, non perché... so, adesso ce lo faremo dire. Che ha lasciato il partito che ha creato portandosi via gli scatoloni. Pochi mesi fa a noi diceva che voleva fare il contadino, ha fatto il magistrato, forse si vuole candidare a sindaco di Milano, non lo sappiamo. È un ex di tutto, ma non si arrende. Antonio Di Pietro, buonasera. Buonasera, buonasera, ma non sono ex, sono uno che fa, come dici, un passo avanti alla volta, un passo alla volta. Non è che uno si arrende. Vabbè, appunto ho detto, mica si arrende. Voglio dire, giusto, solo le mogli sono ex. Come? Solo le mogli sono ex, sì, questo è vero. Però sei ex, ex deputato sicuro. Vabbè, ma voglio dire, è una cosa già fatta, metta a parte. Ex magistrato pure. Facciamolo un'altra adesso. Se non il mestiere tuo. E che no, il mestiere mio, ma tu il comunicatore l'hai fatto, perché quando uno fa politica comunica comunque, no? Si fa presto a dire. Se, no, dici di no. Ma dici, dove sei, Antò? Comunica, ma quello vende, non comunica. Vende, cioè ti dici. Ma dove vende... sei, Antò? Sei sul trattore? Eh? Dove sei? Dove no, sei? No, stavolta non sono sul trattore perché sono a Roma e perché sono in partenza, andare a vedere come vanno le cose. Dove? Cioè, bisogna pure rimettere in piedi un po' qualcosa, no? Che dici? Dopo quello che sta succedendo a Roma. Ma che una nuova lista. Ma che vuoi fare un partito nuovo sul serio? Sì, ho letto da qualche parte. Partiti, guarda, i partiti. Io l'altro giorno, ve l'ho detto, stavo in un treno e c'era un signore che fa il parlamentare e si stavano presentando fra di loro. Quando è arrivato il turno suo, che io lo conosco, io stavo da quest'altra parte, quando è arrivato il turno suo, dice, lei cosa fa? Lui ha detto, faccio il medico. Ah, tu hai detto così, faccio il medico? Non io, l'ha detto quello. Ah, l'altro si è nascosto, vabbè, tu no, perché ti riconoscevano. Quando tu dici... che fai? Ti metti a fare un partito? I partiti di questo momento non è che ti battono le mani. E allora che vuoi fare? Vuoi continuare a fare politica? Sul serio? Io, certamente, da cittadino. Ma è 20 anni che fai politica. Uno... le mie battaglie. Una cosa che farò di certo, visto che vogliono fare questa cosiddetta riforma che farà crescere i capelli a tutti, farà diventare a tutti più giovani, quella del Senato, quella delle riforme costituzionali, io farò parte del comitato per il no a quest'altra presa in giro. Vabbè. E alle 7 di sera non si può dire diversamente. No, si può dire, presa per il culo, si può dire tranquillamente. What? I don't know. No, presa per il culo. Io però ero rimasto al fatto che tu ti volevi mettere a fare il contadino. Mo adesso non capisco, partito non ne vuoi fare. Cioè vuoi fare iniziative così, sindaco di Milano lo vuoi fare o no? Certamente è una delle, diciamo così, delle aspettative che ho in mente. Perché credo che voglio dire, voi state parlando della situazione romana, ma sapete quante città di Roma ci sta in giro per l'Italia? Cioè tu dici che c'è anche a Milano, è così, no? Con tutto il rispetto di Roma, a Milano l'avevo già scoperto io 20 anni fa. Vabbè, però, sì, però oggi è cambiato l'aria, oppure no secondo te? Nel senso che adesso danno pure le botte, ai tempi miei quando voglio dire si limitavano alla corruzione, adesso visto, ci stanno pure quelli con tutti i muscoli che ti dicono che ti fanno ci sono anche i picchiatori, dici tu, no? I picchiatori. Senti una cosa, però, Antò, ma è vero o no che tu hai cioè alla fine Craxi tu sei stato un grande nemico di Craxi, nemico diciamo dal punto di vista giudiziario, processuale. Anche politico ovviamente dopo, però Craxi era già fuori, ma è vero che era più nobile di questi qua? Ma guarda, Craxi, voglio dire, l'ho detto e lo ripeto. Quando all'inizio ha visto all'inizio vi ricordate quando Chiesa arrestammo Chiesa, diceva vabbè, è un fatto locale. Quando poi capì prima degli altri che ormai il pentolone era stato scoperchiato, il sistema di marcio che stava all'interno dei partiti, lui fu il primo che si alzò in aula e disse è inutile, qui ci siamo tutti dentro. Poi venne anche il tribunale a dirlo, c'è una differenza ovviamente, che se lo dici in aula è un'accusa che fai agli altri, è un atto politico, se lo dici in tribunale si chiama confessione. E dunque? Cioè è più nobile lui, cioè più voglio dire, una persona che ammette le proprie responsabilità. Cioè meglio lui di questi qua. No, Ma io non sto parlando meglio o peggio, sto dicendo rispetto all'ipocrisia di oggi. Oh, guardate che domani, appunto, questo Renzi dico. Ha detto, domani ha detto Renzi ha detto che domani farà la riforma sulla giustizia. Innanzitutto lo poteva fare un anno fa, ma secondo, lo dico ai cittadini che ci ascoltano. Non so se avete chiaro, ma molto probabilmente domani fa un disegno di legge, sì, dovrà dire porto Campacavallo, in Parlamento. Campacavallo, sì. Ce ne, dove ce ne stanno circa 8.000-8.500, solo io ne ho presentati circa 125, a me hanno detto domani. Quindi voglio dire, il disegno di legge in sé è un pezzo di carta. Se davvero voleva fare qualcosa, faceva il decreto. Fa un decreto di legge, ha messo la fiducia sul Job Act, come si chiama lì? Jobs Act, faccio paura. Jobs Act, ecco, sì. Però ti fa la jobba, ti fa, sai come si dice? La jobba, che vuol dire la jobba? Ti jobba. Vuol dire, ti fa la jobba e ti fa ti rompe la schiena. Ah, traffico, pubblicità, torniamo tra un secondo con Antonio Di Pietro. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. È una vergogna che Radio 24 faccia una cosa del genere. Forse la lavatina di capo se ti farebbe bene. No, la vera vergogna qui è una sola, e lo dico anche ad Antonio Di Pietro che è in collegamento con noi. La vera vergogna, l'ho detto all'inizio della trasmissione, è che i due cosiddetti capi della cupola, Carminati da una parte, l'estremista di destra, il Nero, e dall'altra il signor Buzzi, il capo della cooperativa, uno dei più importanti dirigenti della cooperativa romane, Rosso, mettiamola così. Allora, il primo, Carminati, condannato, è stato beneficiato da ben tre perdoni, chiamiamoli così, da ben tre indulti, eccetera eccetera. Questa è tre la volte legge. Per tre, ma è la legge la decidono i politici, non è che la decide qualcun altro. È stato perdonato tre volte. E l'altro, Buzzi, ha ammazzato uno a 34 con 34 coltellate. Ha cercato anche di bruciare il cadavere. Ma a un certo punto sono ex detenuti questi. Ed è uscito dalla galera con la grazia di Scalfaro. Cioè, questa è la questione fondamentale. Cioè, il paese, l'Italia è questo. Anche gli assassini, come il capo della cupola, il signor Buzzi, escono di galera dopo pochi anni perché ricevono la grazia. L'altro invece, un pluri, come dire, considerato il mostro dei mostri, ha fatto pochissimi anni di galera rispetto a quello che avrebbe meritato probabilmente, perché sono intervenuto una specie di condono per tre volte. Di Pietro, dica qualcosa pure lei, su. Io ho sempre sostenuto che chi va in galera ci va e ci deve restare. Come voi sapete, io sono stato accusato, sono stato anche processato e comunque sono stato umiliato per essere giustizialista, per essere quelli che metteva in galera le persone e quant'altro. Io personalmente, davvero, lei adesso ha detto delle cose, lo ha detto col cuore e ho sentito la differenza tra quando giochiamo e quando scherziamo e quando facciamo sul serio, ma mi ha fatto impressione proprio come cittadino, ascoltatore, a sentire come dal cuore ti usciva questa cosa. Ma perché un presidente, il Presidente della Repubblica, attenzione, il Presidente della Repubblica ha dato la grazia, che è un atto che lui dà sulla base di atti che riceve. Non lo sto scusando, perché per l'amore di Dio il comandante della nave è sempre responsabile, ma io vorrei sapere chi sono quelle persone delle istituzioni che hanno istruito quella pratica per la grazia. Io chiedo, noi dobbiamo tutti chiedere che quel fascicolo, lì c'è un fascicolo grosso come una valigia, che stava sul tavolo di Scalfaro per predisporre le ragioni della grazia, perché dobbiamo vedere cosa ci hanno scritto e chi l'ha fatto. Perché questo si era messo a fare dentro il carcere, come lei sa, Di Pietro, si era messo a fare attività a favore dei carcerati. Ma quante cooperative fanno bene invece? Il problema invece è se l'è messo a fare o l'hanno scritto, perché guardate, io, è opportuno leggere, voi vedrete quante volte quei nomi ritornano in altre vicende. Stai tranquillo che alla fine tutto è legato, perché una cosa è che fai qualcosa e mica lo fa solo lui, ma secondo te, Tony, tu che sei uno che insomma conosce, allora, fammi finire il discorso. Questo signore voglio dire è un responsabile delle coop rosse. Sì. Io ho già mille volte detto che prima o poi bisognerà chiarire, perché intorno alle coppe rosse c'è tanta gente che lavora, ma c'è anche tanta gente che ne approfitta. Ma perché nessuno ha mai indagato sulle coppe rosse? Scusami. No, guarda, ti posso assicurare che nell'inchiesta Mani Pulite, io ne ho scritto anche un articolo di fondo proprio oggi, nell'inchiesta Mani Pulite io mi sono trovato a indagare sulle coppe rosse. Sì, ma in generale... In generale non si indaga, non è vero. Perché queste hanno un sistema ingegnerizzato, questi non hanno bisogno di pagare tangenti, le coppe assistono e sussistono e mantengono a suo tempo, diciamo così, si occupano della logistica. Questo è tramite. No, anche adesso, certo. Ma il fatto stesso, io non so se vi è chiaro, ma 10 giorni fa, all'ultima cena lì, stavano ancora lì, a braccetto, a pagare 10.000 euro, quei 10.000 euro che, o 5.000 euro. Vabbè, quella era la cena di Renzi, che c'entra? No, scusa, sono soldi nostri quelli. Quello delle cooperative, sì, certo. Sta attento, sono soldi che loro hanno preso, perché l'hanno preso dallo Stato. E ritornano al partito. Che ragionamenti sono questi? Abbiate pazienza. Senti una cosa, ma tu veramente sei tornato a fare l'avvocato? Faccio l'avvocato, indubbiamente faccio l'avvocato, ma devo stare attento. Ma non mi dire che vuoi difendere Fede sul serio, come ci ha detto lui. No, adesso ti spiego. Io indubbiamente devo campare, poi voglio dire, non è che sono diventato vecchio all'improvviso. E come campi adesso? Il problema dell'avvocato per me è delicato, perché da me ci vengono o quelli che, voglio dire, sono nomoni, cioè nomi di, ma siccome le avevo già viste prima nell'altro mestiere, non li posso accettare. Devo dire, tipo, chi è che si è rivolto a te? Ma valgo la facoltà di non rispondere. Vabbè, fammi un nome. dai. Ma Berlusconi lo difenderesti tu? È una questione di rispetto, certo. Ma Berlusconi, se ci fosse la possibilità, lo difenderesti? Se te lo chiedesse, difendimi. Ma non posso farlo per una questione di correttezza. Ma guarda che quello paga, quello paga. Ma non si può, non è tutto commerciabile. Ci sono delle ragioni per cui non puoi accettare, per non mettere. Cioè, Berlusconi non lo difenderesti? Ma non è Berlusconi, né Berlusconi né Berlusconi, perché c'è una questione di rispetto verso di lui. Emilio Fede sì, però. A parte il fatto che io, anche Emilio Fede non ci ha avuto, voglio dire, cause. Lo difenderesti in tribunale dalle... Emilio Fede, io non, a parte il fatto che al di là delle battute Emilio Fede non mi ha mai chiesto di difenderlo, ma sto dicendo, io con Emilio Fede non ho mai avuto causa. L'avvocato per definizione difende clienti che vanno da lui, ma torno a ripetere, io attualmente devo anche stare attento, perché certamente il povero Cristo viene da me perché dice aiutami tu, però poi voglio dire non c'è una lira il povero devo Cristo anche, no ma per l'amor di Dio, io cerco di rispettarlo, cerco di fare il mio dovere lo stesso. Devo anche, per una questione di deontologia e di rispetto... Vabbè, stare attento a chi si rivolge a te. Ecco. Quindi è questo, ma in realtà io voglio continuare a impegnarmi, adesso se ce ne saranno le condizioni sicuramente... Ma con Grillo, no? No, io vado direttamente ai cittadini, mi faccio la mia lista. Direttamente ai cittadini, O come sindaco di Milano... Cioè la lista di Pietro Sindaco. La lista di Pietro Sindaco? Come si potrebbe chiamare? Voglio dire, io Milano non so parlare milanese, ma i milanesi li conosco. Li conosci i milanesi? Senti un po', ma col potere, no? La politica, alla fine si fa... Cioè, una volta si diceva, ti ricordi, è meglio che fottere, no? Com'era? Comandare. Sì, comandare è meglio che fottere. Ma con la politica si finisce di fare l'amore oppure no? Cioè facendo politica. Purtroppo, vedi, quando uno scende in politica, già la parola scende ti fa capire, quando uno scende in politica, anche le persone che tu pensi essere, cioè io una volta, adesso parlando seriamente, io per dare un messaggio, quando ho fatto il partito, per dare un messaggio di come all'interno del Parlamento ci devono stare anche persone che rappresentano quelli che sono andati a sudare all'estero per guadagnare il pane, ci ho messo un operaio, quello appena arrivato in Parlamento ha detto qui bisogna farsi i cazzi tuoi. Vabbè, quello amico mio, quello però è Razzi, è l'amico Razzi. Però capisci come si imbriacano la gente. Vabbè, adesso poveraccio, è diventato un mito, adesso vuole fare addirittura. È diventato un mito, però torna a ripetere, Sanremo. Tu guarda anche all'interno del. Ma ce l'hai con Crozza perché l'ha fatto diventare un mito? No, per amore di Dio, all'interno del Movimento 5 Stelle. Sei un po' geloso di Razzi, sei un po' geloso di Razzi. Con questa idea che si viene nominati, la gente. Voglio dire, vende l'anima, fa il mestiere più vecchio del mondo pur di arrivare là. Senti voglio una cosa, sei un po' geloso di Razzi che va dappertutto, sì? No, assolutamente. È diventato... Lascia che abbia un po' di rispetto di me stesso, voglio dire. Avere sbagliato a fare una scelta, d'accordo, ma... è diventato una specie di mito. Guarda che successo ha avuto. Guarda che successo con Crozza dappertutto. L'hai creato tu, praticamente. Per l'amor di Dio, voglio dire... ognuno ha il successo che si merita. Se permetti, io preferisco aver fatto quello che ho fatto, e se metto sulla bilancia tutte le cose che ho fatto, sono orgoglioso di quel che ho fatto. Vabbè, senti, Milano ti vuoi candidare, però manco sapevi l'ultima cena là, il cenacolo, dov'era? Torno a ripetere, io non so parlare milanese, stendo a parlare le italiano. 5 giornate di Milano manco sai quando sono. Torno a ripetere. Ma non sai, le 5 giornate, quando sono, quando erano? No, guarda, è inutile che cominciamo a fare i giochini. Ma non sai le 5 giornate, Antonio, no, non intendo ancora una volta stare a questo giochino, perché come una volta io gioco e poi ci giocate sopra voi. Torno a ripetere, io vedi, anche Roma è in mezzo a un macello, ma con senso di umiltà dico, sì, non saprei amministrare Roma perché non conosco la città di Roma. Conosco la città di Milano perché conosco. Ho capito, ma uno deve sapere Milano qualche cosa di fondamentale. Io conosco una realtà economica, industriale. Ma le cose fondamentali uno deve sapere, o no? Le cose fondamentali è come funziona la città, come funziona l'economia della città, come funziona la sicurezza della città, che è una cosa molto importante a Milano, come funziona la solidarietà e come funziona soprattutto. Ma come stai campando adesso? Come stai campando adesso? Ripeto, faccio l'avvocato e hai la pensione da deputato? Arriverà pure quello. Fai l'avvocato. Anni, Cioè, dunque, non è che stai campando bene con un grossi stipendi adesso. L'avvocato Comunque ho coltivato quest'anno, non ho neanche più gli animali, quindi ho coltivato il grano, quindi sai che quest'anno non ho raccolto un litro di un chilo di olio, non ho fatto un litro d'olio. Dramma in Toscana, e solo in Puglia c'è un po' di olio, lo so. Per cui i tuoi redditi sono calati drammaticamente. In Puglia vi ha fatto un particolare trattamento. Io non sono andato a raccogliere nemmeno. Addirittura ci ho mandato, io c'avevo 2 o 3 maiali, ci ho mandato i maiali, manco loro volevano. Addirittura. Comunque hanno fatto schifo pure loro. Vabbè. Ciao Antò, ciao, presto, ciao. Sì, mi raccomando che tempo da mandare di fare salsicce. Ciao. Ma io dico agli italiani che mi sentite, il problema è che lei fa la trasmissione con i miei soldi, lei e il signor Parenzi fa la trasmissione con i miei soldi. Mauro, sei rimasto? Sì, ci sono. Sei la mia unica luce, amico mio. Perché non mi hai passato quel coglione di Ripeto? Infatti dovevo farlo, Mauro. Ah? Così gli chiedevo, da dove è venuta la Mercedes 5000 e i 150 milioni della scatola di scarpe a sto coglione? Vabbè, ma dai, chi non pensa di cantare? Chi pensa di cantare quel pagliaccio lì? Dai, vabbè, Mauro, allora qual è il discorso che stai facendo? A parte di Pietro, discorso, che stai dicendo? Discorso. Ascolta. Dimmi. Ma come? 8 anni e mezzo. Ma che c'hai, Piatone, che c'hai? Ho appena fatto 2 scale. Ma perché hai anche una casa? Io ho una casa dell'Aler. No, ma dai, non è vero. Non è una casa dell'Aler, dai, non è vero, dai, ma Mauro, non ho è vero. Ho una casa Aler. Vuoi sapere cos'è successo io con quell'idiota di Boni? Ha detto Parenzo che bisogna dare alla tua casa un rom. Ma magari, più utile. No, ascolta, i rom vengono pagati, strapagati. Gli vengono dati gli appartamenti, poi li subaffittano le puttane e i trans. Ma che ne sai? Mauro, dai! Ma che vuol dire che subaffittano i trans? Dai. Ma porca puttana, ma dove vivi? Ma che 20 anni, 30 che fanno così? Ma dove vivi? Ma dove vivi, Somante? Dai, ma secondo te? Ma come cazzo fanno a fare una vita così? O che rubano e fanno rapine? Vuoi che ti racconti il rom che è venuto a lavorare con me 15 anni fa? Ma a lavorare con te dove, scusi? In una carrozzeria, non ti dico qua. Ah, perché tu fai il carrozziere, è vero? La lavoravamo in una carrozzeria, avevo un tipo che aveva il mio nome. Ho detto, allora, ma sei giovanissimo. Oh, ma io ci ho due figli, io ci ho due figli. Come? La mia moglie, mia donna ha 26 anni. Lui aveva 17, aveva già due figli. Vabbè. A 15 era già padre. Allora gli ho detto, beh, insomma, dai, ti insegno a lavorare, non mi sembri stupido. Dopo due mesi fa, no, me non piace. No. Perché? Vado a fare la prima. Dopo un mese e mezzo ha preso 11 anni. Dopo gli hanno condannati 6, dopo un anno e mezzo, due era già fuori. Vabbè, e allora? È questo. Ma tu dov'è la tua casa? Ma tu veramente abiti in una casa dell'Aller? Sì. Allora, sono gli altri buoni, che no, in una trasmissione. No, Parenzo, facciamo qualcosa per questa casa dell'Aller di Mauro, scusa. Ascolta. Davide, che vogliamo fare? Ma è più utile darla a un Rom, sicuro. Diamola ai Rom, dai, diamola ai Rom questa casa che hai, Mauro. Sì, dai. Mandami il Rom qua. Sai come esce? Sì, come esce. A fette. Ma che a fette, dai, ma smetti. Ah, ascolta, ma che mangiasse quest'altro un manganello, me. Che fai? Ma c'è quest'altro un manganello perché volevo pestare un nero. Ma perché volevi pestare un nero? Scusami, Paolo. Gli ho chiesto gentilmente. Chi dice a questo scooter? Dovevo andare a fare una pratica dall'avvocato per la separazione della mia ex moglie. Sì. Era il settembre 2011. Vabbè, allora? Per cortesia, c'è qualcuno qui che ha lo scooter? Sì. Il mio scooter, me lo sposti per cortesia? Sì. Allora adesso vengo, stavo giocando alle macchinette, quelle infernali. Ma perché giocavi alle macchinette? Ah, lui giocava. Lui giocava alle macchinette. Allora? Ho aspetto 5 minuti. Oh, io devo segnare, ho l'appuntamento con l'avvocato. Me lo sposti per cortesia? Lo sposti tu, lo butti in mezzo alla strada. Cosa fai tu? Mi stacchi la faccia, vieni qua che mi sposti. No, vieni qua. No, dentro c'è allora? Il nero. Vieni fuori, spaccami la faccia. Ho detto, sono andato con le mie dai, vieni fuori, spaccami la faccia. Ma perché devi fare queste sceneggiate? Ma perché tu non vieni a comandare a casa mia? Vabbè, tu sei casa mia quando sei in Italia e devi rispettare le regole. Ma dai, su. I cittadini dello Stato. Ma non ho capito, ma tu che faresti? Io non ho capito, ma tu con i Rom che faresti? Con i campi Rom? Non ce ne sarebbe uno in Italia. E come fai materialmente? Come? Vanno da dove sono venuti. Ma spesso sono italiani. Vanno da dove sono venuti, qui sono per dare il voto al PD. Ma che la democrazia cristiana. Però scusami Mauro, sono per dare il voto al PD. Ma sono... Ma il nostro è... Voti nostri per il PD, ma lo vogliamo dire la realtà. Però scusami, Mauro, editorialista Mauro della Zanzara, io voglio capire una cosa: questi Rom sono italiani alcuni, molti ma sono che italiani. Cazzo dici? Ma dai, ma Mauro, che cazzo su. Dici? Sono italiani che vengono dal Montenegro o vengono dalla Romania? No, sono italiani. Macedonia? Vabbè, ho capito, ma tu che faresti alla fine? Vengono anche dalla Polonia. Vabbè, ma dai, che fai con sti campi Rom? Alcuni vengono dalla Polonia. Ho capito, ma sti campi Rom adesso ci sono. Tu che fai? Mauro da Mantova, che fai? Li togli! Ma come? Ma ascolta, ma adesso ragioniamo. Ma ragioniamo. Ma ti sembra giusto che un disoccupato, come posso essere io, devo pigliare 200 euro al mese del comune, no? Ma Parenzo, reagisci, di qualcosa. Ma non dico niente io a questo qua. Questo non dico niente. Che uno di Mare Nostro o un Rom mi piglia 900, io mi incazzo come la belva, giustamente. Ma tu non sei, perché dovresti prendere soldi tu, Mauro? Perché dovresti prendere soldi? Oh, bello! Grazie a quelle prove di merda di Monti che con gli altri le benedetti, io non lavoro più da 3 anni, lo sai? Vabbè, ma non è grave, è perché e l'anno scorso ci mio collega. Ma sarà anche un problema tuo, ma sarà anche colpa tua! Ma sarà anche colpa tua! Ma che si è suicidato, Mauro? Sì, ma ma porca puttana, si è suicidato in carcere. Ma sarà colpa tua che non lavori, sarà colpa tua che non lavori. Ma colpa tua che ci sono le carrozzerie che stanno chiudendo. Ma che cazzo dici? Ma dai, Mauro. Ma il mio collega viene licenziato, lo sai? Ma non lo so perché. Il mio collega, sì, che ha sempre fatto l'operaio, e che è un sinistroide di merda. Sì. Perché è un sinistroide di merda. Sì. Verrà licenziato dal datore di lavoro, perché farà la società con i figli. E quindi lui lo piglia in culo e gli ho detto dai, hai bene, Berlusconi un ladro, ma no, con Berlusconi coglione lavoravi. Vabbè, adesso su, dai Mauro. Cioè, ascolta. Ah. Non farmi incazzare. Ma sei già incazzato di tuo. Non vuole mica che io creda a quell'idiota di Renzi, dice faccio la guerra ai fotelli forti, ma se ti ha messo lì loro. ha messo lì loro. Scusami, Mauro. Ma deve mettere Napolitano, si messo. Ma secondo te si sente male prima o poi? Prima o poi si sente male, Parenzo, Mauro? Ma stiamo aspettando solo quello. Ma io non essere incazzato. Ma chiunque sarebbe incazzato, io prendevo dai 2.500-4.000 euro al mese. Ma perché io non vai ogni tanto a fare qualche, da qualche prostituta, a farti qualche cosa, così ti rilassi un attimo? Perché, se tu vuoi sapere bene, le prostitute non mi fanno pagare, sai perché? Perché non ti fanno pagare? Perché non sono idiota, antipatico, coglione, pezzo di merda, ricchione come il tuo amico. Ma io con le prostitute, io con una addirittura ci ho fatto il Natale, con la famiglia. Vabbè, ma dai, sì. Con una venezuelana ci ho fatto il Natale e la famiglia, sai perché? Perché? Perché sono più gradevoli le prostitute che i rom e che i pezzi di merda, le cacula, le fiamme e i ricchioni come quelli che hai lì vicino a te. Vabbè. Quello lì è un accattone. Ma perché devi insultare in questo modo, Parenzo? Non ha senso, dai, traffico su, ma dai, non ha senso. Traffico, dai, Mauro, basta, ciao. È una cosa indegna la sua trasmissione. Ieri, Parenzo, abbiamo sentito la senatrice dei 5 Stelle, ex 5 Stelle, Anitori. La cosa più incredibile che è passata con Alfano. Abbiamo chiesto alla senatrice Anitori perché questa giravolta a 360 gradi. E Anitori, che non era più nel 5 Stelle già da un annetto, innanzitutto ha detto che non si dimette. E poi ha detto anche che lo stipendio sono affari suoi, perché ovviamente se uno entra in Parlamento con la promessa di ridursi lo stipendio della metà, poi non è che si può rimangiare questa cosa e dice no, ci ho ripensato, me lo tengo tutto. Ma lei ha pure restituito lo stipendio poi oppure lo prende per intero adesso? Questo, allora, sono riuscita a fare una battaglia per ottenere un giudice di pace, un tribunale di giudici di pace a Ostia e ci sono riuscita e sono molto orgogliosa. No, ma quello va benissimo, sto dicendo, siccome lei è stata eletta con la promessa... Molto di più che fare la carità pelosa che non serve a nulla. Dunque questo lei non restituisce più la sua parte ma di stipendio? Ma non è importante questo. No, ma è una domanda, scusi. Sono affari miei, non spetta a nessuno. Lei è stata eletta con quel mandato lì. Sì, ma io sono stata eletta dicendo una cosa e poi sono state cambiate le carte in tavola. Sì, vada a rileggere, ma non su questo, però non era la diaria. Lei si vada a rileggere, no, ma lo stipendio sì, però la restituzione di metà dello stipendio, ma questi sono affari miei che a lei non interessano. Ma come sono affari suoi? È una promessa elettorale, non è una cosa politica. Cosa incredibile, cioè esponente eletta con i 5 Stelle con una campagna elettorale basata sul fatto entriamo in Parlamento e prendiamo il 50% dello stipendio e l'altro 50% lo diamo via, a un certo punto ci ripensa e dice che Grillo è un dittatore, che sì, Grillo è il padrone del partito e se ne frega e se ne fotte totalmente tiene i soldi. E si tiene i soldi dello stipendio, non ha manco il coraggio di dirlo, cioè uno potrebbe dire sì, è vero, non sono ripensato, ma probabilmente io non lo so, no, se non lo so perché sta con un nuovo centrodestra, sai, hai visto mai, cioè anzi probabilmente si ricandiderà. Il punto fondamentale è un altro, al di là del fatto del cambiamento di partito, del cambiamento di linea politica, prima era nei 5 Stelle, adesso col governo, ma già tutto folle, ma lasciamo perdere questa roba qui. La cosa più incredibile, uno dovrebbe avere il coraggio di dire sì, prendo lo stipendio intero perché quella di prima era una buffonata, invece nemmeno questo, sono affari miei. Ma quali affari miei? Enzo, provincia di Roma. Enzo, vai. Luciani. Dimmi, Enzo. Luciani, buonasera. Ciao. Senti? Ti sento. Bene, meno male che hai staccato quello psycho razzista di Mauro, una trombettella stonata veneta, guarda. Lo psycho è di Manto, in realtà, però comunque. È rimasto? Di Manto. Allora, no, per fortuna non c'è più. Proprio era al cardiopalma. Era preferibile sentire Tonino Di Pietro, almeno mi avrebbe suggerito qua a quale procura rivolgermi per scoperchiare un altro pentolone di merda. Vabbè, ma poi è un'altra storia. Io volevo intervenire sulla grande Valentina Nappi, perché a questa bisogna dargli una cattedra universitaria, Giuseppe. Cioè questa qui dovrebbe insegnare alle mogli come tenere il matrimonio ancora in piedi, perché se tu pensi bene, la società di oggi, che cos'è? Hai visto quanti divorzi che ci stanno, quanta gente? È la trasgressione che ti fa cambiare, no? Ti mangia sempre la stessa minestra, no? Allora? Perché evidentemente le mogli o i mariti... Guarda, in Inghilterra hanno fatto una specie di, ma esiste anche in Italia, una specie di club... dove fanno le lezioni alle donne per mantenere in piedi i matrimoni, che poi non ci vuole. Quelli sono paesi civili. ma noi siamo paesi, ma anche in Italia volendo uno vado allo psicologo, non so. Sicuro, dai, cioè, vabbè, ma qua andiamo oltre lo psicologo, che cazzo è da risolvere allo psicologo? Ma tu no, vai, ma voglio dire, basta che ti consulti con un'amica o con un amico, dice come faccio a mantenere... consulti? Io voglio avere una consultazione diretta con questa già quando parla mi fa venire un orgasmo cerebrale proprio. Ah, la nappi ti fa venire un orgasmo? La nappi, ma che stai scherzando? Allora, a scuola di sesso per salvare il matrimonio, le mogli benestanti a scuola di seduzione per ravvivare la propria relazione. Ma non sono le mogli benestanti, tutte le mogli. No, perché tu... costa, capito? Costa lei? No, lei, no, ma tu sei fissato con la nappi adesso, ti sei fissato con la nappi? Sì, io da quando l'ho ascoltata, come ti ascolto sempre, da anni. Cioè ti arrapi come una bestia appena l'ascolti? Ah, bravissimo, mi arrapo come una bestia, proprio come un animale. Guarda, cioè appena senti... cosa darei per conoscere, eppure io so che lei non è una simpatizzante dei campani, io sono... un campano di origine, però. Beh, quello si sente. Tu dici che ogni volta che la senti alla radio diventi proprio un. Si arrapi come un dannato. Sì, mi fa venire, guarda, delle fibrillazioni, mi sviluppo un'endorfina. E che cosa possiamo fare, scusa? Dagli lumi. Cosa possiamo fare? Ma questa ci devi fare intervenire proprio a parlarci diretta, ci devi dare un piccolo spazio. Ah, tu dici filo diretto? Beh, questa non è una cattiva idea. Filo diretto con la nappi. Con la nappi. Gli ascoltatori della nappi sul sesso. Non è male questo qua. Bravissimo, perché a te diciamo ti si tollera perché sei un buon attore radiofonico. Al Parenzo proprio, vabbè, non ne parla, sentiamo un bel. Vabbè, video. Comunque guarda, organizzeremo filo diretto sul sesso ascoltatori Valentina Nappi. Ma questa si deve candidare. Vabbè, perché la vuoi far buttare serve. In politica? Non serve, dai, su. Fermi tutti. Come vede la situazione di Roma? Verdone ha detto che Roma è perduta, la gente vuole scappare, Roma è finita, morta. Enrico Montesano invece, ciao Enrico. Ciao. Buonasera, ma no, ma io sto tanto bene. Ma come stai tanto bene? È meravigliosa, ma... è una meraviglia. Ma come è una meraviglia, Enrico? Ma come stanno sì, Roma tutti? Quando piove ci possiamo fare il bagno, ci abbiamo le vasche. Ed andiamo con le barche, con le canoe, con le foglie, facciamo tante ghirlande, ma che meraviglia, è molto pittoresca. E poi Marino, che bello questo sindaco, si è fatto crescere la barba, ma i romani lo riconoscono lo stesso. Annaccio, che dobbiamo fare? E che dobbiamo editoriale, che editoriale. Ciao Enrico, bene, ma arrivano ancora i fumi dei rom dentro casa tua? Sempre, adesso è rientrata mia moglie e mi ha detto che c'è una puzza che accora, come si dice a Roma. Ah, cioè poi i rom continuano a bruciare tutto? Sì, si sente adesso, noi qui abbiamo un odore fortissimo, acre, e che ci prende la gola. Ma dove stai, scusa? Abita stanno a Roma... bruciando perché c'è un campo lì sull'Olimpica e sale dalla collina da dietro. Oh, nonostante i nostri appelli mesi fa, niente, non è successo nulla. Non succede nulla, mio caro, per questo è un posto meraviglioso. È un posto fantastico, è un posto fantastico. Roma è un posto fantastico, si respira questo. Ma questa mafia, tu ti accorgevi che esisteva questa mafia, questa cupola? Ma non esiste. Ma che cos'è la mafia? Non esiste. Non c'è. E non è vero, sono tutte cattiverie. Roma si sta bene, bella, la mafia, ma quale? Ma fanno degli affari, normale, pensa che adesso quando Buzzi e Carminati o De Vaine devono andare al comune, gli ha messo un servizio, pensa quanto è attento sto comune, com'è giudizioso e generoso, gli mette un pulmino a disposizione, il Solabus. Il Solabus, stupendo. Senti, la beccherina questa, la beccherina. Senti Enrico, ma non ho capito, ma alla fine è uno scandalo de sinistra o de destra, cioè de fascisti o de rossi, o tutte e due insieme a magnà? Ma sono tutti e due insieme, ma ormai io posso dirvi una cosa, ormai dopo tanti anni, è ma tutto ancora pittoresco. Fascisti e comunisti. Comunque è tutto pittoresco, è tutto è molto pittoresco, c'è la zona di mezzo, si incontrano tutti, ma qui mangiano tutti, ma i romani lo sapevano, lo sanno da sempre. Vabbè, ho capito, però sai, si sono scoperchiate mazzette funzionali. Noi avevamo le prove provate, ma se sa, se sapeva. Allora, voglio sentire dopo anche tua moglie, perché ho sentito una voce dietro, fermo un attimo che c'è. Sai, barone, tu che ti vogliono dire una cosa, a Roma ormai in una situazione economica disastrata, siamo in un vicolo greco quando è carina questa, pubblicità. Eccola qua. Aspetta, pubblicità, aspetta. Ma pubblicità prima, lasciami perdere un attimo, pubblicità. Questa trasmissione è assolutamente geniale. Ho trovato geniale, Parenzo, una cosa che ha detto Platinette. Ah, beh, stava Montesano. No, Montesano, adesso torniamo. Collegamento con casa Montesano. Platinette ha detto su Ilaria D'Amico, che è mia amica e mi perdonerà questa cosa, ma io dico tutto quello che leggo. Sembra una trans, un trans venuta bene, faceva l'intellettuale e si è messa con Buffon. Ho trovato queste tre cose messe insieme strepitose. Ma a me non ho mai dato l'impressione di un trans venuto bene. Faceva l'intellettuale, si è messa con Buffon e la battuta ci può stare. L'ho incrociato a un evento, è altissima, è una specie di trans venuta bene. Sì, proprio se uno proprio ci pensa, dopo che questa cosa l'ha detta Platinette, può trovare delle... Ma sì, ma dai, su, è giusto perché è una virago, no? Considerato una virago, ma in realtà no, è molto femminile. Però... faceva l'intellettuale e si è messa con Buffon. Vabbè, ma non è che se uno fa l'intellettuale non si può mettere con Buffon, appunto, cioè mi sembra... Ma in collegamento da casa Montesano, dove ci sono i fumi provenienti da un campo rom vicino, Enrico Montesano, ma c'è pure la moglie. C'è, ma mia moglie ti voleva dire che una cosa, però dice io che c'entro. Vabbè, io te l'ho insistito. Ma che ha fatto? Che ha fatto? Passamela un attimo. Passamela un secondo. Ti racconta la sua vicissitudine. Dimmi. Come si chiama? Ciao, come si chiama moglie di Montesano? Teresa. Ciao Teresa. Ciao Teresa, buonasera. Siete sposati regolarmente? Sì, tutto a posto. Sì. Diciamo tutto a posto. Da quanti anni siete sposati? Noi ci siamo sposati nel 92. Ah, beh, no, beh. 92, dunque 22 anni fa. Vabbè, sì, allora, signora, per i 25, per signora Teresa, che succede? Mi vuole raccontare una cosa? Che mi vuole raccontare? Che vicissitudine? Ma ad esempio, una breve, rapida, sì. Un'amica di mia madre è caduta in una buca e cadendo ha sbattuto male e ha perso la vista d'un occhio. Vabbè, quello questo però di chi è una cosa normale. No, no. Enrico vuole dire no, una però, cosa no, però può succedere in qualunque città, cara, questo romano. Pensa, io pure sono caduto in una buca a Piazza Bologna, sono uscito a Conca d'Oro, sono messo meno della metropolitana. Ma ti rimasto Teresa, un'altra vicissitudine di Roma qual è? Allora, a settembre sotto casa nostra hanno portato via i lampioni, l'illuminazione della strada, e a tutt'oggi non l'hanno messi. Chiamo la CEA non sa niente, dice che sono in lavorazione. Ho chiamato la segreteria del sindaco, mi hanno passato lo 0606, mi hanno messo con la musichetta, la signora dello 06 voleva sapere che numero avessi fatto, e dopodiché è caduta la linea. La CEA, dove rubano qualsiasi cosa. Servizio Giardini, prima dell'estate Giardini. Abbiamo degli alberi qui che non sono potati da anni ormai, hanno superato i palazzi e sbattono quindi sul... Noi siamo al quarto piano, quindi sbattono sul nostro terrazzo. Ma al di là di questo è anche pericoloso, perché col vento, con il tempo che è cambiato, si può staccare qualche ramo e cadere addosso a qualcuno, come già è successo. Sì, dunque? E per di più questi alberi sono pieni di pidocchi. Quindi noi, avendo le finestre, dobbiamo chiudere le finestre per evitare che i pidocchi degli alberi, il fumo dei rom, le buche, i rotasi, la limo, l'ici, possono ammazzare. Li possi ammazzarli, li portacci. Questa casa nostra è considerata casa di lusso, che il lusso non è, forse negli anni 60 era di lusso. Quindi ci fanno pagare l'IMU, la TASI, i servizi indivisibili. Ma poi i servizi indivisibili, ma perché non li dividiamo? Così vedremo quelli che fanno e quelli che non fanno. Le vicissitudini di casa Montesano. Teresa, un'altra cosa che succede a Roma tremenda, un'altra cosa terribile di Roma che ti è capitata. Basta. Le buche, le buche, gli alberi non potati con i pidocchi. Gli alberi non sono potati, le luci, più di queste, più noi abbiamo qui vicino due campi rom che bruciano continuamente. Certo, questo è un problema, i campi rom che bruciano continuamente, questo è un problema serio. Ma e la cosa grave è che a volte, per esempio, Enrico aveva denunciato questa cosa già tanto tempo fa, abbiamo chiamato, non succede niente, chiamato il messaggero per fare questa denuncia e si è negato, chiaramente per non andare contro gli interessi del sindaco che era Marino, insomma, già era Marino. Ma scusa, ma alla fine di tutto Ambe dice che sta a dire era Ghiotti Rantombino e Roma mo l'aspetta, ma quale decoro che tutto un casino con la mafia capitale mo è sempre carnevale. Beh no, aspetta, però ripetiamola da Enrico. Bellissima Enrico, ripetiamola dall'inizio, scusa, com'è? Dall'inizio, com'è aspetta, che fa? Passo. Sì, sì, la vuoi che te la canto dall'inizio? Sì, sì, dimmi un po' com'è. Lo vedi, ecco Marino, e Roma mo l'aspetta, lui gira in bicicletta, l'inghiottira un tombino. Vabbè, poi va avanti. E poi come fa? Poi c'è la tacchellama che assuma una iosa, so piene di buffi e a sbafo ce se va. E tu magna magna, chi ruba e chi frega. Poi? I servizi sono schifo, ma che pagamo a fa? Ecco, te l'ho fatta in romano. Beh, ma è spettacolare, ma è spettacolare. Ma l'hai prodotta lì per lì? Ma come scusi, all'impronta per voi. Calda, scusami, calda. Enrico, io dico una cosa, ma alla fine non sarà pure un po' colpa di Romani tutta sta situazione? Cioè, va bene, i ladri, e Buzzi, e Carminati, che peraltro sono romani, eccetera, eccetera. Ma sarà un po' pure colpa, cioè, no o no? Ma cosa dovrebbero fare questi poveri no, romani? No, la natura, come uno dice, i rom no, sono naturalmente la romanità. I romani, o no? No, non c'entra niente. No, perché i romani sono gente che si fanno affari loro, che non gli piace il casino, la confusione. Non credo, ma poi i romani quali? I romani siamo un'enclave, una razza in via di estinzione, saranno 35. I cittadini, i romani, i cittadini pochi, di Roma, forse dovrebbero... ma tu hai visto? Cioè, forse lo no, hanno i romani, fatto. Forse Cruciani intende questo. I romani come genere, no? Quelli che te do la sola, quelli della mandracata, no? Questo... Però non sono romani, sono un po' borgatari. Io se posso dirvi, questo linguaggio che usano questi malavitosi di una Roma marginale è lontano dal romano di Sordi, di Fabrizi, che insomma era un'altra cosa, sì, era un'altra cosa. Mi pare, questi sono grevi. Ecco, senti, ma Marino che deve fare? Se ne deve andare oppure no? Diciamoci al romano, Enri. Marino? Mamma mia. Ciao, a presto, saluta tua moglie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Giovanni da Novara, Giovanni. Ciao. Dimmi. Ma ascolta, questi qua che dicono queste robe qua per radio. Cioè chi? Questi qua chi? Questi qua, dai, buon anno, ne ha sparati quelle lì sul presepe. Cioè, sono mai andati una volta a ascoltare senza essere credenti, praticanti o queste robe qua. Però avessero letto una volta una pagina di Vangelo. Ah, magari l'hanno letta, magari l'hanno letta, dai, su, Giovanni. Minchia, l'hanno letta, ma cazzo, sono l'anticristianesimo e poi vanno e dicono i musulmani così, sono violenti, sono così. E noi cosa siamo? Siamo meglio di questi qua? Vabbè, io non ho capito quello che vuoi dire, scusa, non ho capito quello che vuoi dire. Con chi te la vuoi prendere? Quell'altra signora che dice... aspettiamoli fuori da chiesa e poi facciamo la giustizia popolare. Certo. Dobbiamo ritornare al Medioevo? Siamo così incazzati che dobbiamo farci giustizia da solo? Questa è l'Italia di oggi? Gigi dalla provincia di Milano, ho capito Giovanni, Gigi. Oh, finalmente, ciao Giuseppe. Vai, dimmi, dai. Gigi da Bolate. Oh, finalmente. È un mese che ti ascolto, devo dire che il tuo programma è demenziale, però mi fa morire da ridere. Vai, comunque, vai, Gigi, vai. Ok, ti volevo dire, Giuseppe, a Parenzo, prima di tutto, per quella coglionata che hai detto prima riguardo il 5 Stelle, deve provarlo, Cioè? Deve provarlo che uno del che 5 Stelle ha in Emilia ha avuto. No, no, io ho detto che ci sono state. No, che ci sono state delle indagini che in Emilia Romagna hanno coinvolto anche ex aderenti. Ragazzi, di solito quelli dei 5 Stelle. E Cicciolina è vergine, Parenzo, sì, ok. Ah, comunque, questo Giuseppe, bisognerebbe chiederlo a lei. Una premessa. È un fatto che erano ex Movimento 5 Stelle, cioè eletti con il 5 Stelle. No, non solo del 5 Stelle. Vabbè, Gigi, dimmi, che mi vuoi dire? Non ho capito. Una premessa, Giuseppe. Siccome qualche tempo fa ho sentito quella deputata, se così si può dire, che parlava di politica light, no? Volevo dire, se quella lì, quella signora no, lì... Lady light, un'altra cosa. Comunque, sì, dai, quella roba lì, ci siamo capiti. Se scopa come parla... Diglielo pure che mi faccio un raspore, perché davvero è vergognosa. Questa qui col morto in casa dire? Come che vuol dire, Giuseppe, mi deludi? Cosa vuol dire? Secondo me ho capito, dai. Cosa vuol dire? Parla proprio senza senso. Ti voglio dire un esempio. Il 13 marzo del 13 il 5 Stelle ha presentato in Parlamento la proposta del conflitto di interesse. Questa innominabile, che non so nemmeno come definirla, sì. Questo innominabile il 14 aprile va a dire ad Agorà, quel programma di Rai 3 al mattino, va a dire noi vogliamo fare il conflitto di interesse, ma non ce lo fanno fare, guarda, demenziale, riportaglielo pure sta cosa. E poi stasera ti do la notizia di stasera. Qual è questa notizia? Con tutto lo scandalo che è successo, Roma, Expo, Moses e oggi l'Umbria, il presidentissimo non si è mai degnato di dire una cagata. Ma quale presidentissimo? Ha sempre parlato a proposito. Stasera sai cosa ha detto? Sai cosa ha avuto il coraggio di dire? Ma chi? Il presidentissimo. Che è il presidentissimo della Repubblica? Ma che? Ah, Napolitano, allora sì. Sai cosa ha detto? Ah, sì. Basta con l'antipolitica, riferendosi a Grillo e a quel coglione di Salvini. Sì, una patologia eversiva, si ha detto, una patologia eversiva. Vabbè, ma sono i soliti interventi di Napolitano qui, non... Insomma, Grillo non gli sta simpatico, forse nemmeno Salvini. Ciao Gigi, ciao. Zanzarologi. Antologia della zanzara. L'antologia della zanzara di questa sera è legata alle grandi inchieste di Cosmopolitan sul Pompino. In questa grande inchiesta sul Pompino di Cosmopolitan c'è anche la formula ok, Parenzo. Oltre all'armonica c'è l'ok. Sono i consigli che danno le donne, eh? Fai il segno dell'ok con la mano, poi premi l'indice contro il labbro superiore come se fosse un baffo e il pollice su quello inferiore, prendi il suo pene con il resto delle dita e poi pronti via, ti giuro che io non ho capito, eh? E poi pronti via, avrà la sensazione che stai andando ancora più a fondo con la bocca. Tutto questo lo potete leggere su Cosmopolitan. Ma l'antologia della zanzara ritorna al mitologico intervento di Miss Fisherman. Sentite. Ecco perché, così come bisogna fare sesso col preservativo, bisognerebbe fare anche il pompino, il cunnilingus con il preservativo femminino. Lei come pratica, se pratica questo? Ma io devo dire la verità, pratico il pompino senza preservativo. Che cosa dice al suo fidanzato? Mi venga incontro, cosa dice al suo fidanzato? Ma io di solito uso una Fisherman. Usi? Usa una? La Fisherman, io lo faccio con la Fisherman, lo trovo più carino. Cioè? Mi piace quell'effetto di mentolo. Parenzo, tu conosci questa cosa delle Fisherman? Ah, è una figata, no, fatti fare un pompino con la Fisherman e sarà felice lei e tu. Zanzarologi, antologia della zanzara. Giovanni da Bologna, buonasera. Sono qua, buonasera. Dimmi. No, volevo dire soltanto, prima sono stato d'accordissimo con quello che hai detto di Renzi, è una vergogna. Cosa? Le leggi speciali, ma quali leggi speciali? Qui basta che la smetta di prendere i soldi dalle cooperative. Vabbè, questo è a dimostrare che lui prende i soldi delle cooperative. Certamente quella cooperativa. No, lui e quelli del suo partito. Che ci sia inutile che facciano i moralisti. È inutile che facciano i moralisti quando Bussi, tutta questa gente là, finanziava la cooperativa di Bussi, finanziava la campagna elettorale di tutta quella gente del Partito Democratico di Roma. Questa è la solita storia. Quando Craxi è morto perché è stato condannato, lui prendeva i soldi, ma quelli di quel partito lì, degli artesignani di quello schifo di partito, cioè il Partito Comunista, li prendevano dalla Russia. Vabbè, adesso non torniamo alla Russia, non torniamo alla Russia. No, che... no, sono d'accordo, non torniamo alla Russia. No, ho capito che ci sia un sistema perverso su cui nessuno fino adesso ha indagato, di finanziamento di campagne elettorali, magari legale, da parte di cooperative che a loro volta ottengono lavori pubblici. Bravo. Su questo non c'è il minimo dubbio, Bravissimo. Roberto D'Ancona, Giovanni, ho capito, Roberto Ancona, dai. Allora, Cruciani, vai veloce, vai. Io ho sentito un sacco di telefonate che tu fai tutte le sere con questi pugliesi, no? Sono tutti baresi, foggiani e camionisti. Allora? Antropologicamente inferiori. No, Roberto, no, mi scatenare. Dai, guarda tu, che domani ti faccio nero, Guarda, tu stai dicendo Roberto nero. D'Ancona. Allora, mi i baresi mi fai e nero, ma ho da argomentare su questo. Baresi e foggiani sono razzisti, dici? Sono antropologicamente razzisti. Camionisti, baresi e foggiani sono culturalmente, e tu li peschi apposta. Inferiori, dici, inferiori. Tu li peschi apposta per solleticare i loro istinti. No, io non peggiori. Pesco, arrivano. No, certo, non peschi, chiamano, non li chiamano peschi, Barisoni. Amico mio, tu li peschi, amico no, mio. No, ti abbraccio, ciao, a domani. Sì. Ma cosa aspetti a dargli una vena sepoltura al gatto? Quel gatto che è in testa, che si vede lontano un chilometro perché è un gatto morto. Ah, porca puttana, ma c'è lontano un chilometro che è un gatto che non hai sotto i capelli. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma non dire, cagate, ascolta signore, che quello lì è un gatto morto. Radio 24. La passione si sente.